Radio 24 Reportage. Shoah, un viaggio nell'antico quartiere ebraico di Roma, tra ricordi e paure. Di Elisabetta Fiorito. Voi che vivete sicuri nelle vostre tiepide case, voi che trovate tornando a sera il cibo caldo e visi amici, considerate se questo è un uomo che lavora nel fango, che non conosce pace, che lotta per mezzo pane, che muore per un sì o per un no. Ci troviamo sul Lungotevere con Laura Hannuna, una guida del Museo Ebraico, davanti alla lapide che commemora i 6 milioni di ebrei uccisi nei campi di sterminio nazisti e gli 8.000 che furono deportati dall'Italia. Questa deportazione degli ebrei romani, con questi uomini, donne, bambini e anziani che sono stati deportati nel campo di sterminio di Auschwitz, rappresenta una delle pagine più buie, più vergognose della nostra storia. Però c'è anche da dire che purtroppo questa deportazione ha avuto un prologo, il suo prologo è stato quello delle discriminazioni razziali. Eccoci dunque al largo 16 ottobre del 1943, quando durante lo Shabbat, all'alba del sabato, gli ebrei romani vennero catturati per essere deportati ad Auschwitz. Laura Hannuna, guida del Museo Ebraico. Quando le truppe tedesche entrarono a Roma, e questo precisamente il 26 settembre del 43, il maggiore dell'SSK convocò il presidente della comunità ebraica di Roma e quello dell'Unione delle Comunità Israelitiche Italiane, dicendogli che dovevano, gli ebrei avrebbero dovuto consegnare 50 kg di oro entro 36 ore allo scopo di aver salvato la vita, per evitare la deportazione 200 capo famiglia ebrei. Das Dritte Reich fordert von der israelitischen Kultusgemeinde Roms die Zahlung von 100 Pfund Gold. Il Terzo Reich esige subito dalla comunità israelitica di Roma 100 Pfund d'oro. Come 100 Pfund? 50 kg. Già, 50 kg. Gli ebrei riescono a racimolare tutto quell'oro, ma vennero aiutati di molti non ebrei della città, ma comunque questa consegna fu vana, perché il 16 ottobre del 43 cominciò una vera e propria caccia all'ebreo, in realtà in tutta la città. Questo è uno dei luoghi in cui i camion dell'SS erano parcheggiati. Quindi elenchi alla mano presero 1022 persone, soprattutto donne, bambini, disabili, anziani, perché molti uomini si erano nascosti pensando che i tedeschi fossero, i nazisti fossero interessati solo a loro, e per i campi di lavoro non sapevano nulla dei campi di sterminio. Quindi inizialmente vennero portati in un palazzo non lontano da qui, vennero mandati ad Auschwitz, dove la maggior parte di essi vennero immediatamente mandati uccisi nelle camere a gas. Rimasero solo 149 uomini e 47 donne, ma solo 16 di essi fecero ritorno, 15 uomini ed una donna. Siamo intanto negli uffici della comunità ebraica, nell'antico quartiere ebraico. Siamo qui con Ruth Dureghello, presidente della comunità ebraica romana, e vogliamo ricordare il 27 gennaio, il giorno in cui furono abbattuti i cancelli di Auschwitz. Lei è di famiglia romana, presumibilmente anche la sua famiglia è stata colpita da questa tragedia. Assolutamente sì, come tutte le famiglie di Roma, non è scampata nessuna. Spesso si ricordano soltanto i 1016 deportati dal quartiere ebraico e da tutta la città il 16 ottobre, ma furono oltre 2000 poi gli ebrei romani deportati nella totalità del periodo dell'occupazione. La mia famiglia è scampata grazie al mio cognome, che non è un cognome ebraico. Furono presi a Via delle Cave, un quartiere sulla Tuscolana, e portati al collegio militare, e mio nonno si dichiarò di matrimonio misto, e questo in qualche modo ha permesso a me di essere qui e a 9 persone di uscire salve dal collegio militare. Quindi, come tutti, porto i segni di quella tragedia. Oggi c'è di nuovo paura tra gli ebrei in Europa, c'è paura come a Marsiglia a portare una kippah. No, grazie al cielo in Italia posso dire con orgoglio che non c'è questa paura, e che comunque mai chiederemmo ai nostri iscritti, ai nostri correligionari, di togliersi il simbolo della nostra identità, che è la kippah, per almeno un paio di motivi. Da un lato, le autorità e le istituzioni, che sono ovviamente sempre attente e sempre presenti, e dalle quali ci sentiamo particolarmente tutelati e protetti. Dall'altro, perché gli ebrei romani e gli ebrei italiani in particolare si sentono in questo momento in particolare, anche dopo la recente visita di Papa Francesco, particolarmente orgogliosi di ciò che sono, lo vogliono rappresentare, lo debbono rappresentare con orgoglio. C'è però una recrudescenza dell'antisemitismo. La comunità ebraica molto spesso accusa gli antisionisti di mascherare il loro antisemitismo. Perché avete questa impressione? Non è soltanto la comunità ebraica a denunciare questo ormai da tempo, ma è voce ormai conclamata anche in diversi ambienti politici. Lo stesso Papa, per citarlo un'altra volta, lo ha detto in maniera esplicita durante la sua visita in Israele. È chiaro ed è sotto gli occhi di tutti che lo strumento dell'antisionismo non è altro che un bieco e meschino e forse il più moderno metodo per attaccare gli ebrei e manifestare l'antisemitismo. Lei oggi pensa che sia possibile una Shoah di nuovo, ma potrebbe succedere ancora che potreste essere attaccati proprio voi che siete la minoranza del mondo? Guardi, purtroppo, come diceva, genocidi ce ne sono stati altri. Di cui posso essere certa è che il fatto che Israele oggi esista e che sia così rappresentativo di questo nostro modo di essere ebrei un po' in tutto il mondo è una garanzia ulteriore. Nella nostra passeggiata in ricordo della Shoah nell'antico quartiere ebraico ci fermiamo in via del Portico d'Ottavia numero 13 e qui incontriamo Anna Foa, storica, autrice del libro omonimo e che racconta la storia terribile di quei giorni. Via Portico d'Ottavia numero 13, edizione La Terza, adesso stampato in edizione economica. Anna Foa, siamo in questo bellissimo cortile di via Portico d'Ottavia numero 13. Era la sua vecchia casa? Sì, io ci sono stata fino a 5 anni fa e ero molto incuriosita perché è una vecchia casa, intorno a noi sono colonne, portici e ero molto incuriosita a sapere cosa è successo qui durante l'occupazione nazista e allora mi sono messa a studiarlo e ne è uscito questo libro che ha rivelato una storia veramente tragica perché metà degli abitanti di questa casa, tutti ebrei, sono stati deportati o uccisi alle fosse ardeatine durante questi mesi. Perché oltre la deportazione il 16 ottobre 1943 c'è poi l'eccidio delle fosse ardeatine dove 75 dei 335 erano ebrei, giusto? Esattamente, alcuni vengono arrestati dentro la casa, proprio al primo piano, quelle finestre che vediamo, abitava una famiglia che dopo che le donne e i bambini erano stati arrestati il 16 ottobre tornano in casa, gli uomini soprattutto, anche una donna e 2 bambini e vengono poi gli uomini, 4 uomini della famiglia vengono arrestati nel febbraio e saranno poi assassinati alle ardeatine. Il suo libro però si conclude con una nota amara, i delatori la fanno franca. I delatori la fanno franca perché in Italia c'era la volontà di cancellare la complicità italiana, perché c'era la volontà di presentarsi al tavolo delle trattative di pace dalla parte dei vincitori e non dei vinti e c'era l'amnistia che in qualche modo per pacificare cancellava quasi tutte le colpe. La fanno franca con pochissimi anni di carcere, quelli che vengono fucilati sono pochissimi, a Roma 3 o 4 vengono fucilati, fra questi il questore Caruso che era stato quello che aveva organizzato la caccia all'ebreo dal febbraio al giugno del 1944. Storica, come vede questa recrudescenza dell'antisemitismo? Molti in Francia fanno aliyah, vanno in Israele, hanno paura a mettere la kippah. In Francia c'è una situazione diversa anche perché ci sono le banlieue con tutti quelli che vengono dai paesi coloniali, dal Maghreb, cosa che in Italia non c'è. Certamente in Italia c'è anche in Italia una recrudescenza di antisemitismo, cosa che più che altro mi preoccupa è il fatto che l'antisemitismo, che fino adesso è stato un tabù, stia cominciando a essere sdoganato, in qualche modo sia possibile dirsi antisemiti, cosa questo è molto strano dopo la Shoah. Kolod baleva benima nefesh yehudi omia Siamo ora arrivati ai confini del ghetto, a Via della Reginella numero 2, e incontriamo quelle che vengono dette le pietre d'inciampo. Sono dei piccoli riquadri d'ottone che sostituiscono i sanpietrini, la pietra lavica tipica della pavimentazione romana. Queste pietre d'inciampo sono il ricordo dei deportati verso Auschwitz. Qui che cosa leggiamo? Leggiamo una cosa raccapricciante. Laura Hannona, guida del Museo Ebraico di Roma. Lo sgiamo qui abitava, il nome della persona che è stata deportata. Quindi lo scopo è quello di ricordare al mondo intero che le persone che sono state uccise durante la Seconda Guerra Mondiale non erano fantasmi. Avevano una casa in cui abitavano, avevano un luogo in cui lavoravano e sono state, come in questo caso, strappate dai loro letti alle 5:30 del mattino per essere portate nei campi della morte. Allora, qui abitava Rossana Calò, nata nel 1941, arrestata il 16 ottobre del 1943, deportata ad Auschwitz, assassinata il 23 ottobre del 1943. Questo sta diventando una sorta di uno dei più grandi monumenti alle vittime del nazionalsocialismo, perché non lo troviamo solamente qui a Roma e non è solamente appunto per gli ebrei, ma per tutte le vittime del nazionalsocialismo. Rossana Calò aveva 2 anni. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.